vivere attimi senza logiche. Nell'atto del dubbio ci si conserva indenni per poi perdersi e fondersi con vari strati dell'essere, per essere unanimi nella forma del pensiero che sia dentro un credo, dentro un cassetto del tuo ego. Smarrito nel pensiero, perdo l'identità, una vuota esistenza spesso porta a una sola risposta, che sia dolorosa poco importa, perché tutto si racchiude in un momento, un solo istante, la fine. Non ha tempo, pause da ricordare, scorre lissa come seta sopra un corpo da buttare. Una scelta rapida, una scelta facile, per chi non trova motivazioni per lottare in questo mondo, continuare. Rimanere sepolti sopra strati di vetri, tra cataclismi eterni funerali, con la parete di una cella ancora intatta dentro inserti reali. Solo paure, niente reami, dentro a sogni vuoti, manufatti di apatia, concetti ausiliari. Come polvere mi espando e scompaio, da nascosto rimango nessuno, alla luce un nessuno con un volto, tutte quelle espressioni che si può portare. Vivere dentro a maschere, cera colata in faccia, si è tramutata la tua smorfia, nell'atto di disperarsi diventi insensibile. Una maschera per poterti cancellare, non farti riconoscere, per quel marcio che porti con te, e la tua rabbia va a farti fottere. Volevi essere solo carne, e carne tu sia, emozioni a puttane dentro questo cerchio di apatia. Ma ricordi, quelli sono difficili da cancellare, troppo belli tra i tuoi rimpianti. Sai che indietro non puoi tornare, non ti rimane altro che ricordare. L'angoscia ti avvolge, un pozzo nero di opportunità che ti travolge e sconvolge i tuoi piani finora partiti senza intenti reali. Soltanto posti occasionali, vuoi far viaggiare la mente, perdersi nei luoghi dei chiusi, soprusi in massa, e svanisce la speranza di lasciare quella stanza. Poi ti lascia da cacciatore e impugni il pugnale d'assassino, stimo il tuo declino, assaporando il mio breve respiro. In questo modo io vivo, nello spasmo di forti piaceri rivivo ogni singola goccia di questo lisino assuefatto, vago stordito attorno al mio miraggio. Nello spazio che fa da atto al misfatto del canto delle gesta spastiche, in piazze piene di storie, brami le più preziose. Ma la brama di fama è come la malaria che non sfama ma rincara, l'amaro da assaporare nel buio, ritornare a strisciare, levigare quel coltello, aspettare, pensare, approfittare dello sbaglio e pugnalare, colpire da infame e ricavarne un ideale già scritto e prestabilito. Non trovi altro dentro un covo appassito, un cumulo esaurito, un vuoto acquisito, un corpo finito. Sempre nella stessa vetrina, l'inaspettato diventa sospetto. Da spettatore aspetto il consenso per entrare in esso da capire. Non sta nella logica, ma alla soglia dell'illogica, che fa l'opinione, si trasforma in convinzione ed elabora una soluzione. Appare per un attimo e poi vola via, ci si afferra alla scia dell'ampito messaggio. Assaggio dopo assaggio cadi nell'inganno. Un sottile strato di incertezze nel dubbio spariscono e si affissano nel muro dei fallimenti e decadimento. Cado assieme al muro e al mio degrado, nella forza dei desideri inespressi, senti, ora vago insieme gli stessi sogni repressi nella valle delle grida mute dei lamenti. Per i mancati consensi autoespressi, uscirne indenni vuol dire uscirne vuoti e senza compromessi. Viaggia anima lungo la strada del proibizionismo, perdi idee, trovi il rassegno in schemi prefissati nei gironi dell'inferno. Assegno un punto alla morte come segno e sdegno la vita, ormai troppo indietro in questo gioco dove ci si annulla, lei fa fatica. We'll be right back.